L'ha chiamato nessuno? Lo zoo di 105. Eh sì, perché sai c'era Francesco Cucci. Mi ha detto che per partire sull'isola dei famosi, no? Da tutti in mano a Mazzoli, no? Da tutti in mano a Mazzoli, no? Dici che devo andare lì, devo partire meglio. Non sai nemmeno come si fa l'isola, mannaggia! Sì! Voi non sai nemmeno come si fa l'isola dei famosi! È un dragone! Basta, Gibbo, non posso respirare più, ciao!